let's go. Quando sentono la cassa fanno, quando vedono la scarpa fanno, quando passano ste tipe fanno, questo pezzo è dinamite fa. Jordan, ring, ring, cocchia, shampoo, paglia, boccia. Bella zio, frate, gallo, bello, toro, roccia. Viene giù il club, frate, noi siamo il club. Quando sentono perché mi fanno Se mi vedi nel locale siete tutti in pericolo. Ho una bottiglia grossa come un bambino piccolo. Si chiamerebbe Nicolò, più o meno dell'asilo. Una maglia sempre nuova perché a casa io non stiro. Perdonami se noti ho sugli occhiali da sole. Sai che se me li tolgo sotto l'occhio del ciclone. Tutti vogliono entrare quando siamo nel privé, ma siamo troppo zarri e diventato uno sprivé. Che hater che siete, voi ci volete morti o moriremo. Tranquilli moriremo, ma non di sete. Quindi verso il clicco, prendo il volo perché c'è il passaporto per questo stile e questo flow. Da sto club al mio loft, da WhatsApp alle foto, dai messaggi e massaggi, mo tutti e fichi poco dopo. Dovresti fare un video tu con queste mega zizze. Voglio vederti tutta 37 megapixel. Quando sentono la cassa fanno, quando vedono la scarpa fanno, quando passano ste tipe fanno, questo pezzo è dinamite fa. Jordan, ring, ring, cocchia, shampoo, paglia, boccia. Bella zio, frate, gallo, bello, toro, roccia. Viene giù il club, frate, noi siamo il club. Quando sanno che c'è marra fanno. Quando senti questo pezzo dici che pezzo. Ma quando vedi la mia tipa dici che gran pezzo. La figa è il sacco a pelo del cazzo, mi ha detto un vecchio. Da allora scimmia col campeggio, sono un lupetto. Sto disputando un match di sguardi sul divanetto. Ho perso a tavolino quando ho visto il suo rovescio. Mi parla di persone, del per come, del per cui. Baby è un culo che parla, quindi lascia parlare lui. Pacche sulle spalle, lusinghe e sorrisi. Fra rispetto di più, certi nemici che i lecchini. Baby già che a malapena sopporto i tuoi vestitini. Non è perché sei vegana che allora non fai pompini. Chiamo un taxi che mi porti a un taxi. Teron come Charlize, il mio motto è Massi. Porta pure le tue amiche, tanto quella fa le Marche e l'altra fa il Molise. Quando sentono la cassa fanno, quando vedono la scarpa fanno, quando passano ste tipe fanno, questo pezzo è dinamite fa. Jordan, ring, ring, cocchia, shampoo, paglia, boccia. Bella zio, frate, gallo, bello, toro, roccia. Viene giù il club, frate, noi siamo il club. Quando sentono la furia fanno. Di solito quando esci a fare jogging io esco dallo shocking. Se la mattina presto tweet è perché ho fatto il dritto. E già non riesco più a parlare giusto tipo Sapientino. Noi siamo il casino, sì. Voi gli scemi col mocassino. Bella Quebec, il club è pieno di ragazze d'oro. Senza peli sulla lingua e se ce li hanno fra non sono i loro. Vorrebbero succhiare i cantanti, ma tutti sti sex symbol poi finiscono per fare outing. Andiamo a casa, lascia al club i tuoi amanti. Che io adoro le donne, sì. Le donne degli altri, sì. Spuma di champagne, sì. Ho una distilleria dentro la pancia. Sì, e una collana, sì, come un'antitrancia. Io la faccia verde come Blanca, la mia gente marca. Pure con addosso soltanto roba di marca. La mia compagnia sembra in fuga da Alcatraz. E fanno perché la furia spacca fra. Quando sentono la cassa fanno, quando vedono la scarpa fanno, quando passano ste tipe fanno, questo pezzo è dinamite fa. Jordan, ring, ring, cocchia, shampoo, paglia, boccia. Bella zio, frate, gallo, bello, toro, roccia. Viene giù il club, frate, noi siamo il club. Quando sentono Don Joe fanno. Let's go. Stop, say, yeah, we be a cool man. Stop.